Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Forse qualcuno tra gli ascoltatori ricorderà una nostra intervista alla dottoressa Silvia Cappellozza, ricercatrice presso l'unità di ricerca in bachicoltura del Consiglio per le ricerche e le sperimentazioni in agricoltura di un paio d'anni fa. In quell'intervista la dottoressa Cappellozza auspicava una rinascita della produzione di seta in Italia, vista la richiesta mondiale di questo prodotto anche per i nuovi usi che se ne stanno iniziando a fare in campo medico e tecnologico, oltre che per il consueto uso nel settore dell'abbigliamento. Pare che dopo 2 anni la sua speranza si avvicina a realizzarsi proprio nel Veneto, perché esiste un progetto che si chiama La rinascita della via della seta in Veneto, finanziato dalla regione e anche da aziende private, e sono già almeno 3, 2 nel Trevigiano e una nel Bellunese e a breve probabilmente una quarta nel Padovano, le realtà che hanno iniziato ad allevare bacchi da seta a produrre la produzione della seta. Oggi abbiamo la possibilità di approfondire questo argomento con Angelo Paganin, direttore della cooperativa sociale Onlus Cantiere della Provvidenza, che a Santa Giustina Bellunese sta sperimentando il ritorno alla gelsi bachicoltura. Benvenuto Angelo. Grazie a lei e buona giornata anche agli ascoltatori. Grazie, ecco, volevamo un po' capire, perché tra l'altro voi siete una cooperativa e mi pare che questo rinascita della bachicoltura passa tramite le cooperative sociali. Intanto chi è, cos'è questa cooperativa, il Cantiere della Provvidenza? Beh, la nostra cooperativa sociale nasce nel 2013 proprio per intervenire su 3 ambiti che sono racchiusi anche nel nostro nome, Cantiere della Provvidenza S.P.A. Società Persona Ambiente, quindi cercando di focalizzare il nostro intervento di risposte di lavoro per le persone più fragili, più bisognose di un intervento. Ovviamente la persona non può non essere scollegata dalla società in cui interviene, quindi operare anche nella comunità, in questo caso della comunità bellunese, ma soprattutto il nostro guscio più importante che ci garantisce la vita è l'ambiente, quindi una particolare attenzione anche al recupero dell'ambiente. E quindi su questi 3 fronti la nostra cooperativa sociale si è mossa in questi 2 anni. Ecco, e questo nuovo fronte è questo della... come una cooperativa sociale arriva alla bachicoltura, ecco, diciamo. Ecco, noi proprio con questa attenzione particolare alla tutela dell'ambiente abbiamo, prima di fondarci, abbiamo cercato di verificare quali fossero i possibili ambiti di intervento non esplorati. E la gelsi bachicoltura ci ha suscitato un interesse, visto che c'è una ricerca da parte di chi poi è l'utilizzatore finale del prodotto, che è quindi del bacco da seta e quindi del bozzolo, che non è però solo, come ha ben detto lei, indirizzato solo alla seta. Abbiamo approfondito tutto con la dottoressa Cappellozza per verificare quali erano gli indirizzi a livello mondiale, con la produzione che negli anni 60 noi eravamo il maggior produttore europeo, noi Italia. Il prodotto c'è stata la decadenza della gelsi bachicoltura per 3 fattori soprattutto: uno per il costo della manodopera, ma soprattutto per la industrializzazione dell'agricoltura, per cui l'uso di fitofarmaci e la produzione intensiva nella pianura padana ha fatto sì che ci fossero le malattie che hanno portato alla scomparsa di una produzione che per gli agricoltori nostri, che si ricorda fino agli anni 60, era il primo denaro cash che entrava nelle case degli agricoltori, con i cavalier che venivano allevati nei solai o nei luoghi debitamente attrezzati. Ecco, voi avete ripreso un po' questo in che modo e dove? Sì. Noi l'abbiamo inserito addirittura nel nostro statuto, la gelsi bachicoltura, però dalle parole abbiamo voluto passare ai fatti e abbiamo detto: ma la Val Belluna è un territorio consono rispetto alla gelsi bachicoltura? E quindi abbiamo fatto una prima sperimentazione nel 2013 a Santa Giustina e una seconda l'anno successivo, quindi l'anno scorso, sempre a Santa Giustina, utilizzando i gelsi sparsi. Abbiamo fatto un censimento dei gelsi, abbiamo parlato con i proprietari e con questi proprietari siamo riusciti ad allevare un telaino, che vuol dire circa 20.000 bozzoli, per capire se poi la produzione effettivamente risultava positiva. Perché dico positiva? E mi collego al discorso degli anni 60. La scomparsa della gelsi bachicoltura nei nostri territori causa la industrializzazione dell'agricoltura è dovuta al fatto che il bacco da seta mangia soltanto foglie di gelso, quindi certo. Dipende da questo, da questa foglia. Se la foglia del gelso è inquinata, lui la mangia, ma non arriva alla quinta età, le cinque età per cui passa la crescita del, del bacco da seta, e lui non fila il bozzolo, quindi non, lui non sale a bosco, questa è la terminologia che tutti i nostri agricoltori e soprattutto i più anziani conoscono, e quindi non sale a boscolo e non fila il bozzolo. E quindi lui mangiava, mangia fino a scoppiare, ma non fa il bozzolo, che è il prodotto finale, che è quello che poi crea reddito, crea produzione, eccetera. Abbiamo fatto la, la sperimentazione 2013 e siamo stati soddisfatti sia per il fatto che i, i bacchi da seta hanno filato i bozzoli, ma soprattutto la qualità, perché alla fine il bacco da seta per noi la cosa più importante è che è una cartina di tornasole della qualità ambientale, e su questo stiamo puntando qui in Valbelluna, nel senso di dire attenzione, abbiamo un ambiente ancora pulito, sano, attenzione a non essere invasi da produzione di attività intensive che ne vanno a snaturare il patrimonio quindi ambientale che siamo riusciti a salvaguardare, però che non vuol dire lasciare all'abbandono, che è l'altro aspetto per cui ci siamo mossi certo. Nel campo ambientale. Un conto è curare la terra, averne cura e poi individuare che prodotti che siano veramente sani per le, il consumatore, che siano la dimostrazione e certificata della filiera corta, eccetera. Ecco, ci dobbiamo fermare per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Desde que te pareciste de repente todo parece brillar. Todas estas melodías no decían nada y ahora dicen más. Ah, ahora dicen más. Todo lo que me importaba desde tu llegada no importa ya. Lo que parecía difícil ya no representa dificultad. Con facilidad, pero me pongo a dudar, me confundo y no distingo si está bien o si está mal. Si está bien, agradezco y te corresponderé. Si está mal, como nunca ayudaré. Mientras tanto, apuesto todo por saber. Me gusta encontrar que existe en la vida esta posibilidad de que todo se dé vuelta cuando no esperaba ya no verá. Y algo viene, algo se va, pero me pongo a dudar, me confundo y no distingo si está bien o si está mal. Si está bien, todo por saber. torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di gelsibachicoltura perché abbiamo scoperto che c'è una ripresa dopo tanti anni di abbandono di questa attività grazie anche ad alcune cooperative sociali. Stiamo parlando con Angelo Paganin della cooperativa sociale Il Cantiere della Provvidenza Onlus. Ecco, volevamo capire concretamente chi fa questo allevamento anche all'interno di una cooperativa sociale? Beh, noi ci siamo organizzati. Intanto volevo anche specificare che non siamo gli unici. Le tre cooperative che lei ha citato, sociali, sono quelle che lavorano ragionando sull'inclusione sociale anche delle persone più fragili, perché abbiamo visto che ci sono dei lavori in cui ovviamente occorre una competenza di persone che sono abituate a lavorare nell'agricoltura, a seguire la pianta, la capitozzatura, la pulizia, eccetera. Dall'altra parte però la parte dell'allevamento, la sperimentazione dell'anno scorso l'abbiamo fatta in collaborazione con l'Istituto Agrario Bellai di Feltre e soprattutto con il SIL, Servizio di Inserimento Lavorativo Persone con Disabilità dell'ULS di Feltre di Belluno, per verificare la possibilità di inserire in alcuni processi dell'allevamento anche persone con disabilità, e ha funzionato moltissimo perché sono molto attente. Il baco da seta è delicatissimo, mangia 3 volte al giorno, deve essere pulito, deve essere alimentato, deve essere seguito, proprio accompagnato e curato, e su questo persone che hanno una spiccata sensibilità anche personale sono idonee. Abbiamo invece anche dei produttori pochissimi privati che stanno lavorando nella nostra regione, per dire, nel Triveneto siamo 5 allevatori, coltivatori allevatori, ora come ora, ma il lavoro fatto con i CRAPI di Padova permette di intraprendere adesso il lavoro in maniera più intensiva. Abbiamo piantato insieme a Veneto Agricoltura 2600 gelsi lo scorso ottobre nell'azienda regionale di Vigliago, in comune di Sedico, che saranno produttivi dal 2016-2017. Quindi lavorando in prospettiva ci sarà lavoro. E anche perché il mercato è incredibile, nel senso che uno associa il bacco da seta solo alla seta, sappiamo che invece ormai del bozzolo non si butta via niente. Abbiamo una ditta milanese che con il bozzolo essiccato, tagliato, usa il bozzolo per lo scrub, la pulizia del viso. C'è un'altra ditta che usa lo scarto di questo taglio per fare dei prodotti tessili. Abbiamo l'essiccazione della crisalide che produce olio di crisalide che serve per la produzione di oli e integratori alimentari. E c'è una ditta Orafa che sta creando dei gioielli, sì, utilizzando la seta e quindi usando l'oro e la seta per i propri gioielli. Quindi questo permette anche all'allevatore di non dipendere solo da un mercato per fare i prezzi, ma ragionare a noi come coltivatori e allevatori ad avere un prezzo giusto ed offrirlo anche a quelle aziende che maggiormente cercano prodotti di qualità certificabili nel loro processo, perché come dicevo prima il Medio Oriente, l'Estremo Oriente, produttori al 90% della produzione mondiale, ormai anche i loro prodotti non sono qualitativamente positivi, e per cui le aziende anche della tessili a livello mondiale stanno cercando il prodotto made in Italy, come ha detto lei nell'introduzione, proprio perché vogliono la garanzia di un prodotto di qualità anche a livello di materia prima. Esatto. Ecco, l'ultima cosa che volevo chiederle, torniamo alle origini, e come della gente della Val Belluna ci saranno sicuramente anche anziani che si ricordano di quando magari i loro nonni. È stato incredibile. Com'è stata la loro risposta? È stato incredibile perché noi contemporaneamente all'allevamento molto piccolo, come avrete capito, abbiamo creato dei percorsi educativi didattici, quindi sono arrivate le scolaresche, sono arrivate le persone anziane e hanno portato i loro ricordi, hanno portato i prodotti che loro negli anni 60 con i loro bozzoli hanno fatto la seta grezza, il centro bacologico, la storia delle once e cosa succedeva nelle famiglie. Quindi abbiamo anche scoperto che solo nel Feltrino esistevano più di 1000 allevatori, ma non esiste una tradizione storica, quindi stiamo recuperando anche attraverso gli scritti, i documenti che ci stanno portando, un passato nemmeno tanto lontano, ma che quasi abbiamo dimenticato, voluto dimenticare, e che fa più parte del patrimonio del Trevigiano, nel Vitoriese, nel Padovano, eccetera, ma che anche qui nella Val Belluna ha avuto la sua storia. Bene, la ringrazio. Ringrazio io. Ricordiamo anche il sito dove si possono trovare ulteriori informazioni, www.cantieredellaprovidenza.com. All'interno troverete anche una sezione che si chiama Cantiere del Bacco. Passiamo adesso velocemente a un paio di notizie per concludere la trasmissione. Dal 27 al 29 marzo torna al centro fiera del Garda a Montichiari, in provincia di Brescia, la fiera di vita in campagna, appuntamento imperdibile per gli italiani che coltivano uno spazio verde e gli appassionati di vita rurale. Perché? Perché questa quinta edizione si preannuncia ancora più ricca di quei corsi gratuiti e iniziative che contraddistinguono la manifestazione. Sono previsti un centinaio di corsi, incontri gratuiti tenuti da esperti in una piccola fattoria ricostruita dal vero, dove vengono simulate le principali attività di campagna. L'ingresso alla fiera costa 10 euro, ma è scontato se si prenota online tramite il sito internet www.lafiera.vitaincampagna.com ed è gratuito per i ragazzi fino a 12 anni. Infine, rimanendo in tema di fiere, ricordiamo due appuntamenti di questo fine settimana per gli appassionati di vino: a Verona da domenica 22 a mercoledì 25 il Vinitaly, e a Sarego in provincia di Vicenza da sabato 21 a lunedì 23 Villa Favorita, una delle principali rassegne dei vini naturali. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento con il Quadrifoglio alla prossima, ci potete riascoltare in podcast sul sito www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.